Bryant. Mannaggia, com'è? Santiago, 6.5. 6.5, tutti in posto. No, pa***. Ho migliorato però, con lo tagliere. E auguria. Ieri era 3.5, mi pare, 4. Invece che è un po' negativo, sicuramente a casa è ancora meglio. Cazzo, mi ha piegato il capo appena appena. E che antenna adesso? Arringo che c'è adesso. E così arrivi a tu. Il segnale di questa parte è buono, eh. È come il cavo, tu l'ho provato con il cavo, è uguale. E scappa, dai. Molto meglio, dai. Ok, già va bene. Sono solo con 4 watt, E comunque c'è 6.5. Se li metti qualche aiutino, almeno 8.5 arrivi. Sì. Ok, dai, va bene. È una zona un po' giù, dai. È coperta come zona, è in un fosso. Sì, è in un fosso. Vabbè, ma già arriva, si sente bene, dai. Poi si migliorerà. Gappa. Una bella gappa. Lì se la prende nuova, poi più in là, si mette un'antenna più performante. Ma gappa, dai. Ok, dai, già. Ti devo lasciare, dai, che non ti piace il casino. Ci sentiamo dopo. Grazie del controllo. Niente, tanto, tranquillo. Passaggio quando arrivi un po' più in alto. Benissimo, tu, chiaro, senza nessun... Perfetto. Una propianetta, aveva fatto la radio. Vero, aveva bisogno di aria. No, la radio ha migliorato molto. Ma lei aveva bisogno di diversa aria, hai capito? Che quel bastone lì, gli scoppano. Vabbè. Va meglio così, la cassetta sì. Sono quasi fuori, sono quasi fuori dal coso, dicendo magnificamente bene, prima perdeva anche da quanto. Questo niente, proprio rimane come è, da. È un'altra cosa, eh. No, per caso sono proprio dove, sono arrivato dove c'è il coso, sono quel rovesco. Sì, cazzo. Dai, arriva a quel punto là e poi farà con il passaggio che mi sto cambiando la pista. Abbassare il tempo, no? No. La cipolla KKA. Allora, com'è? Attenzione, mi senti? Qua io sono arrivato al Pancrasiella, com'è? Oh, mi senti? Avanti. Anzi. Ehi, dimmi. Che ne farai a te? Già lo so che è bucata. Porco Dio, cazzo. A me piega, cazzo. Mi sa che è un tirante solo che te la sta salvando. Lo so, vabbè. Appena che posso, vediamo un po'. Ti è fatta male anche la strappa. Ora la strappa bisogna rifarla nuova, ci vuole acciaio, va bello grosso, il tubo leggermente più corto, che tocca almeno in terra, e l'altra strappa un pochettino più su. Adesso vediamo, dai. Ho provato poco fa, già non stavo a campionare, meno male. La famiglia non è una rampa, però... No, non è una butta perché c'è un tirante. Il tirante sta salvando l'antenna. Se non c'era l'unico tirante, quella è l'antenna. Quella è l'antenna. Perché te l'ha piegata, la sta. No, quasi mamma tua, cazzo. Hai visto l'albero che era caduto vicino a casa? Ha preso in piena una macchina. E che appaga, anche. No, capito. Ma come si fa? È che appaga! È Non lo so, ma dice proprio dal comune, perché è caduto, l'hanno piantato nell'aia condominiale, l'hanno piantato in condomini. Ha fatto un bel danno, eh? Macchina nuova, nuova, nuova, un anno di vita. Tanto. Ehi, avanti! No, dopo questo ne sono parlato dopo. Ah, ok, com'è? Buono? Buonissimo. Ho pagato l'ha fatta, grazie. A domani mi fa carantena. Grappa, dai. Dai, sono arrivato a casa, sono arrivato. Vediamo che mi ha fatto niente. Dannaretto mi ha fatto, puttana droga, grazie. Puttana droga. Porca puttana, no. Cazzo, sentivi non parlava che prima. Hola, hola. Si può modulare, dai. Canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Attenzione, canale 10, c'è nessuno in ascolto? Chi c'è avanti? Cappa. Carlo, me lo dai un controllo che c'è un'antenna piegata? Prova a fare un altro passaggio, Anto, che non stavo guardando la lancetta. Hola. 1, 2, 3, 1, 2, 3, com'è? Allora, la radio 5 è il segnale 5-6. 5-6 il segnale. Vabbè. Non posso pretendere nulla, va. La radio sta uscendo bene, capito, comprensibile, chiara, però non è il segnale tuo, 9+20 e struscia. Tocca tenerla così, appena che farà bel tempo la mettiamo a posto. Oh, secondo me non ci arriva stasera. Il uccello del malaugurio, mio. In Viale Italia è caduto un albero grande, è rimasta sotto una ragazza poco fa. Ok, dai Bianco, che sono le balle girate. Vai, non ti preoccupare, Anto, oggi ha fatto un sacco di danni, non ti preoccupare. Canale 10, c'è nessuno in ascolto. Che avanti? Che avanti col poco checcio di antenna, chi è? Le mie 10 sono, non me lo conto. Ciao a tutti. Ciao, buonasera. Ma sto arrivando, sì. Cazzo. No, pensavo che stavo chiamando la gallina, pensavo che ero sul 12, invece sono sul 10. No, guarda, perché c'è un'antenna piegata. Capo. Ok, dai, faccio la chiamata a gallina che mi interessa. A dopo, ciao a tutti. Ciao. Attenzione, canale 10, prego. Attenzione 10. Chi c'è? Io ci sono, buonasera. Ciao già. non ero io che stavo a fischiare, ecco. Ero al telefono e ho sentito a te, sono entrato là. Mi sono sgolato anche stasera, come al solito. Io stavo guardando un po' le notizie e hai visto a Sassari gli alberi caduti, anche a Usine un ragazzo ferito, eccetera, aerei che non ce la fanno ad atterrare, né ad Alghero e né a Olbia, capito? Quello Roma doveva atterrare ad Alghero e è andato a finire a Cagliari. Da Cagliari ha fatto un tentativo, è arrivato ad Alghero, non ha atterrato ed è riandato a Roma, perché neanche a Olbia ci stavano riuscendo perché c'erano le raffiche furti anche lì. Un casino, insomma. Poi ho sentito Antonio che era un po' giù di morale perché il vento gli ha piegato l'antenna, capito? Insomma, ne sta facendo di dannucci questo vento, E l'ha piegata, strano perché c'è un battinabbia. E così infatti ho detto dammi un controllo e ho detto non pensavo neanche fossi tu. La radio era buona, capito? La radio era anche 5, ma il segnale di Antonio era come il tuo, 9-20, capito? E con picchi positivi era a 6-7. Io ho sentito Antonio, ma mi ha chiamato per dare un controllo alla campagna e aveva piazzato l'antenna a quel suo amico, capito? Ah, ho capito, e evidentemente lui è entrato a casa, ha trovato la sorpresa. Sta facendo un meditare questo momento di merda. Ve l'ho detto io, legatevi, mettetevi pesi. Ciao Antone. Che se l'ha sradicato, non è che l'ha rotto Carlo, l'ha proprio sradicato, hai visto che l'ha sradicato quell'albero? Io ho visto, c'era anche sulle notizie di ANSA, a Sassari, più di 150 interventi, Sassari e zone limitrofe, i vigili del fuoco hanno fatto. Insomma, un bel danno. Buonasera Tore, ben sentito. Buonasera anche a voi. Sì, ci ho passato io vicino a dove l'ha segregata quella ragazza. Lì vicino c'erano i pompieri adesso. E lo so, è rimasta una ragazza sotto. Mi ha mandato i video mia figlia che stava passando di lì, che stava uscendo dall'università ed era appena successo. Si sentiva la gente a voci, dice forse c'è uno zaino, si vede uno zaino, dice c'è una ragazza sotto, poi hanno chiamato i soccorsi, insomma quando fa vento così stare sotto gli alberi non è la cosa migliore. Ma magari lì era sul marciapiede, capito? L'albero come è caduto è andato a finire, lei magari era giusta, stava passando sul marciapiede. Infatti, capito? Insomma, poverina, speriamo non si sia fatta niente di grave, perché cavolo, se l'hanno presa i rami piccoli, che avrà preso spavento, graffi, qualche contusione, speriamo sia solo roba del genere, capito? Ma se le è caduto di peso, non lo so, come ce l'abbia, però dice che non è grave, per il momento sembra che non sia grave, c'è scritto. E ha buttato giù anche pali della luce, insomma un bel po' di... In certe zone addirittura è mancata la luce e ho sentito qualche amico nostro che aveva una fase sola e quindi non gli alimentatori erano capito, accesi appena appena e non funzionava neanche la radio. Oh yeah. Insomma, io guarda, ero in chat con questa ragazza di Catania, mi ha detto che sta facendo un ubifragio, gli ha buttato muretti, le sta buttando tutto il lungomare, un casino dice che ha fatto. Sì, sì, Tore, dalle tue parti tutto a posto. No, dove era, ho detto, quella ragazza segregata, questi giorni. E lì, le vicine alla rotatoia delle scuole. E l'albero era giù, e c'erano i vigili dal fuoco lì. Sono passato io e sono dovuto tornare indietro. E sarà caduto qualche cornicione. Sì, è pure un muro, un afferrato, c'è panisso. Cosa farà? Anche il muro non è sceso da quell'albero. Ho visto quello che è caduto in Viale Italia, ai Giardini, angolo via Mancini, lì, ha buttato giù anche tutta la cancellata, capito? Pensa tu la potenza e il peso che aveva quest'albero. Sì, perché? Perché gli abeti, i pini, fanno le radici praticamente superficiali, ne fanno lunghe ma superficiali, infatti rompono sempre l'asfalto, eccetera. Probabilmente le radici non hanno tenuto perché non erano in profondità. Sì, anche per quello fa così, perché non li piantano da quando l'ho piantato in sotto, vogliono piantare ancora di più. In quel terreno delle suore, ogni volta che c'era vento ne buttava giù uno, i pini, le radici le fanno, come hai detto tu, in superficie, capito? Sì, infatti le fanno lunghe ma in superficie, infatti poi arrivano sull'asfalto, bombano tutto l'asfalto praticamente. Lo fanno in modo disastroso, che addirittura uno la plantava una volta, e mi ricordo che da queste radici qua che facevano gonfiare l'asfalto, con la moto si è ammazzato, si è proprio, è morto. Mamma mia, boiaia. Mi ha saltato la volta, ha cominciato a smandare, non ce l'ha fatta tenere. Sì, sì, ho scoperto cos'era l'arcano che non faceva funzionare il miscelatore d'antenna, non era da buttare come aveva detto Claudio, ma era un TL. Ah, ecco, e infatti prima avevano controllato gli spessori. Esatto, evidentemente chissà cosa gli è preso, perché l'ho controllato col tester e non andava bene. Allora ho preso e ne ho rifatto uno nuovo e ho controllato prima tutto col tester. Infatti adesso sto usando la mia radio, diciamo, quello che avevo prima, e prima ero con l'altra, capito, e funziona anche bene. C'ho A e B, capito, ho messo la discesa dell'antenna e le due radio collegate. Ho fatto bene. Quindi era successo a me per il lineare, stavo uscendo di testa, alla fine ho cambiato lo spezzone e ha funzionato, e ho paura di aver sbagliato io facendo i collegamenti, ma cioè l'ho sempre fatti, sembrava strano. Sì, infatti c'è un sacco di gente preoccupata che ha le antenne, capito, perché il vento non perdona, è maledizione, quando si mette a tirare così maestrale è micidiale. È molto forte, sarà 100-120. Ieri l'avevano detto che il vento avrebbe toccato almeno 100 km orari, ma ci sono state certe raffiche che secondo me erano anche di più. E infatti, le antenne sino a 120 possono resistere se sono buone, ma da voi dovrebbe essere di più. Sì, la mia, infatti, me l'ha fatta a curva, me l'ha fatta, non quella nera, l'altra, me l'ha fatta a curva, quella a doppie bande, chi se me l'ha fatta a curva? Ma adesso oppure da prima? No, anche da prima, ma sempre a curva, ah, non so così se qui vado ancora di più. Casino, non puoi farci nulla, la natura è tremenda, l'uomo contro la natura non può fare nulla. Quando si vede bella la natura è così, mi ha di fare. Domani ve lo dico, si è curvata ancora di più. Davvero? Già si vede da me, mi metto sulla strada e guardo dove si è curvata ancora di più. E anche a me si vede. Se scendo giù ma mi piglio un freddo, ma... io mi pongo pure la macchina, mi pongo pure la macchina mia. Avanti! Qui là! Sì, sì, sì, stavo leggendo su internet, capito? E per queste notiziole qua, e subito fanno in fretta a mettere tutto sulla rete, capito? Neanche succedono, giro di 20 minuti c'era già sulle notizie ANSA. E adesso la responsabilità è quella che lo richiede il comune. Non lo so, capito. diciamo che c'è l'ordinanza che dice che quando c'è forte vento di non stare ai giardini eccetera, però se questa ragazza stava passando sul marciapiede e l'albero è caduto dentro e poi è andata a finire fuori, capito? Speriamo non si sia fatta prima di tutto niente di grave, capito? Però penso che la responsabilità ce l'avrà il comune, perché in effetti alberi così grandi alla fine devi tenere alberi nei giardini che non fanno le radici in superficie. A me quando c'è stata quella trombadaia stavo andando a produttore a lavorare e mi è caduto un albero davanti alla macchina, praticamente ha sbarrato tutta la strada, io ce l'ho fatta deviarlo, però ho perso una patata, solo che a scenderne non faceva perché stava piovendo a dirotto, acquazzoni, vento, pioggia, ui, cosa è successo da lì, tutti gli alberi cadendo, cassonetti che camminavano, un casino che ha fatto. Io ci sono arrivato senza pattare al lavoro, ma non me l'ha fottuto, almeno non mi sono fatto male né nulla. Capo, se vieni qua e vedi i cassonetti per terra rovesciati con la montagna in terra. E anche qui ne ho addrizzati oggi. Anche dove i nostri, quelli che c'erano in cortile, malgrado ne abbiamo fatti delle spalle, dei muretti, no, per i castagni dentro, lì ci voleva la catena davanti per non farli camminare. E invece lì là, alzando i coperchi, e li ho dovuti richiudere tutti quanti. Vabbè, non è che aspettava, però mi dava fastidio vederli così, con i coperchi tutti quanti spalancati. Infatti è così, sono i binocchi, è tutto in terra, domani a montare la visibile si può montare, si può farlo, se no si va di sabato, se si va così. Erano nei condomini tutti i mattelli rovesciati, quelli carrellabili diciamo, quelli più piccoli, capito? Tutti rovesciati, spazzatura in terra, carta e nylon dappertutto svolazzando, capito? Casino questo film. Cosa te avevo detto io, Carlo? Io ho un film che ho già visto a Porto Torres, l'hanno messo molto prima di noi. E ne vedevo queste scene, addirittura uno si è smaltito una macchina e era venuto il fanalino, infatti il padrone stava cercando, mi ha detto ma non sa, lo conosce il padrone di questo, detto, come faccio a conoscerlo, io lavoro qua e basta, non conosco, dice adesso chi me lo paga il fanalino della macchina, cazzo me l'ha spaccato. È un bel problema quando succedono queste cose. E infatti oggi avrei dovuto buttare la plastica fuori, e come fa a buttarla fuori? Cioè praticamente la plastica la dobbiamo lasciare fuori del cancello, senza mastello, senza nulla, fuori del cancello con la busta, poi loro passano e se la ritirano. E come fa a metterla fuori oggi? Sono andato al cassonetto e l'ho buttata lì. Hai fatto bene, anche io quella carta, eccetera, cartone, ho detto, ma è capito, ingombrante in questo caso. Ho preso, sono sceso e ho detto, loro li hanno lasciati i cassonetti, era vuoto il cassonetto, non c'era niente, quello della carta, ho preso il cassonetto. Praticamente avevo una scatola tutta piena, capito? E io mica posso aspettare al giorno che passano loro, eccetera. E poi con questo vento, chissà la carta dove c'è. Io guarda, oggi ho pulito, ho spiumato, ho pulito, ho tagliato la testa all'altra e l'ho cucinata. E tutte le piume, tutta la roba, mica la testa me la tengo in casa. È un casino, non si può, è un metodo, secondo me, primitivo, non è, io non lo vedo una cosa buona, dai, la tolgono fuori, prima o poi la tolgono fuori perché vedono che non rende. E adesso vediamo le lamentele della gente, capito? Adesso vediamo. E adesso tutti i cassonetti che sono volati, è un casino, si spaccano, si rovinano, è un casino. Il comune ti li dà in prestito, non è che ti li regala. Diciamo una sorta di comodato d'uso, loro te li danno, però qualora con l'uso si dovessero rovinare, non è che io li devo pagare, capito? Tu non lo lo so come funziona. Io, per non sbagliare, ce li ho ancora in garage, capito? Non li ho utilizzati ancora. Ma a voi dove la farebbero mettere? Dove li farebbero mettere? A noi ci hanno dato, siccome siamo meno di 10, non ci hanno dato, ci hanno dato solo i fusti, quelli piccolini, capito? E le buste. Sì, ma la posizione dove li dovete mettere? Fuori del portone, dove li mettete? Sì, sì, fuori dal portone, già. I cinghiali poco sono contenti quando li trovano. E aspetta, ancora ne vedremo delle belle. Carlo, ho visto dei cinghiali giocando a pallone, hanno fatto il filmato questi qui a Roma. C'era un campo di calcio dove se le ragazze hanno lasciato il pallone e si sono messi a giocare a pallone i cinghiali. Pensa tu. Cinghiali dappertutto, in tutte le rotatorie sono tutte scavate dai cinghiali, capito? Sia nella parte bassa di Sassari, ma anche nella parte alta. E anche dove ho corto il carino, sembra ratto, tutto quanto scavato. Allora, perché loro scavano per cercare vermi, cose così, capito? Poi dove trovano terra morbida fanno ancora più danno, se ne vanno lì apposta, perché a dire qua è terra morbida, non ci sono pietre, e quindi prendono e scavano. E poi con quel muso, ai maiali li mettono un ferrito qua, ma loro ferrito non hanno e quindi scavano. Adesso è uscito con l'ufficio. Adesso sono passato all'altra radio e l'ho spenta perché essendo vicino me la faceva fischiare. Ah, io ho capito, eri nel stesso canale, normale. E un casino, stanno, i cinghiali stanno invadendo tutto, dovrebbero dare il permesso di abbatterli un po', perché stanno rovinando tutto, rovinano coltivazioni, i posti di campagna dove hanno piantato e cose, tutto sfascia, mangiano le radici. Io l'ho visto una volta questo cinghiale sul sasso di Migrazia e mi sono meravigliato, ormai è un cinghiale o mai ha, ho guardato bene, era un cinghiale di quelli grossi, stava scavando. E allora, almeno quelli che sono abituati alla città, lì dovrebbero studiare insomma il percorso che fanno, tanto è abbastanza metodico il maiale o il cinghiale che sia. Si apporta qualche cacciatore, li fa fuori e buonanotte, e poi almeno in città non ci entrano più. Ma io c'è il tore che ce li mangia pure. Dai commenti, ma che piace gli Romagno, però ammazzarlo, cioè, a meno che non gli mettiamo il laccio e lo prendiamo. Sì, alla sera li mettono le trappole anche quelle della foresta, infatti lui botto la vicuna, è andato a fare un impianto lì alla Ginara, mi ha detto che prendevano i cinghialetti, li mettono la roba da mangiare con un recinto, sa che si chiudeva quando entravano e ci rimaniamo. Ma i cinghialetti, quelli no, non c'è gusto così. E come porcetti sono, nel caso non c'è gusto, come porcetti sono. Io, Carlo, oggi mi sono fatto l'anatra. E meno male, sei riuscito a spiumarla tutta bene. Beh, ma carità, però, che lavoraccio. Ho dovuto prendere anche le tenaglie per tirare le penne con le due. Anche se l'ho messa in acqua calda, i signori sono dolci, secondo me dura anche la carne. Non l'ho mangiata ancora, la mangio stasera. L'ho cucinata ma non l'ho mangiata, me l'ho preparata per stasera, di modo che così stasera non devo fare niente. Hai fatto bene, ti sei preparato la cena, capito? Io stasera cena leggera, mi farò insalata, c'ho bresaola, formaggio, non ho voglia di cucinare. Oggi avevo tortellini, ho fatto un piatto di tortellini, avevo un po' di sugo, però li ho finiti, capito? Era solo una porzione e quindi stanotte già ho tante cose. Io ieri notte non avevo voglia di mangiare. Adesso mi metto il cibo di fagioli a bagno nell'acqua, adesso mi faccio il minestrone, però mi ho fatto un minestrone misto, ci ho messo fagioli, piselli, un po' di tutto ci ho messo là, con le verdure, spinaci, ci ma lo sai quanto era buono, ci ho messo anche un po' di peperoncino, l'ha fatto tutto saporito, buono, e l'ho mangiato oggi a pranzo, perché a me mi piace il rappreso, capito? E oggi ho mangiato solo minestrone a pranzo, però ne ho mangiato due piatti. Mi ho misurato la glicemia, ce l'avevo 99, infatti il botto. Non mi salita con la glicemia mangiando verdure. Ebbene, bene, per la salute già va bene, va benissimo anche. E non avevo più quella di mangiare altra, mi ha riempito proprio bene. E niente, e vabbè. Tira gamba. Insomma, mi sentendo adesso su altri canali, danni vari alle antenne, a quel che si dica. Io ne ho sentito un po', che stavo ascoltando anche sui 40 metri. Caspita, poco di antenne ne ha buttato. Se vai su 20, senti gli americani, che se non vedrai da lì. Su 20, certo, abbiamo Eddie. Per carità. E comunque, questo momento quando dovrebbe calare? Domani? Speriamo. No, dai, è già calato stanotte. Stanotte già cala un po'. Adesso bisogna vedere, domani mattina se c'è il vento bisogna guardare. Quando si è verso le 7 bisogna guardare se c'è ancora vento. Ma il maestro regola dai 3 ai 5 giorni, io so che è così. Ma questo è maestrale calante, non è di quello che dura 3 giorni come l'estate. Ma vabbè, speriamo che finisca presto questa storia, perché è una rottura di scatole in questo momento. A parte che muove le serrande, fa un casino nero, si sente roba che balla, tu devi vedere i fili da stendere, quelli che c'ho fuori della finestra, che io di solito non uso quasi mai, solo quando lavo la roba grossa li uso, però uso quasi sempre lo stendino che ho dall'altra parte del terrazzo. Tu devi vedere come si muovono, ho una cosa allucinante. Sì, ce li ho anch'io dalla parte di cucina, però non rientrano mai nulla, anche se veduto dall'altra parte. Sarà coperto lì, magari sarà riparato. Da me è libero, capito? E poi da me è maestrale, ce l'ho in faccia, capito? Perché io ce l'ho vestirato? Perché anche se mi hanno detto che sono stato esagerato, quello che l'altro, io voglio essere sicuro. Beh. E a me lo faccio una grappa. Vabbè, noto, buonasera a tutti, noto con piacere che avete ancora le antenne sul tetto, dai. Ma oggi era una cosa brutta vedersi, Non l'hai visto che ho avuto una brevialità e ha coperto una ragazza che stava passando? Sì, l'ho letto. A Porto Torres è caduto un albero, ha fatto danno una macchina, a Usini, un casino. Ho sentito che ha fatto danno anche ai radioamatori, per antenne importanti, no? Antenne grandi. Un macello. Pensa che stamattina ho portato mamma al bar a pigliare un cappuccino sul Tastoria. Ci siamo dovuti rifugiare dentro, nel gabbiotto, perché a Giovanni ci portavi i tavoli. Buonasera a tutti, avanti che ho sentito. Tore, Carlo, vai Carlo. Ciao Marco, ciao. Buonasera Marco, sì, c'è anche Tore, e io Gianni e Tore solamente per adesso. Antonio prima si è sentito e gli ha piegato l'antenna, mi diceva. A chi? Ad Antonio. Ma a Bombolo? Sì signore, infatti era giù di morale. Minchia. Io, vabbè, la vedevo oscillare, ho guardato, oscillava, però essendo sottile si compensa la cosa. Per fortuna ho trovato stazionale, voi l'ho vista visivamente, ma io sentivo in banda naturale che domani è pure peggio, sempre che non cambi. È un macello, veramente un macello oggi. Poi ho volato di tutto, ho trovato in strada di tutto, bombolette, spray, stracci magari stesi, contenitori con prezzemolo che magari qualcuno aveva messo sul davanzale, di tutto c'era. Va bene, vai Tore. Sì, a me me l'ha fatta curva, me l'ha fatta tempo, adesso non so se me l'ha piegata ancora di più, e vabbè, vuol dire che ce la teniamo così, mentre se è curvata rimane così. E Antonio ce la dovrà rifare, l'importante è che non l'abbia troncata. Ma lui è, dottore, tu che sei in zona, lui come ce l'ha? Molto esposta l'antenna? Più alta della mia, il tubo è molto più alto, ma deve essere che il tubo non è stato fissato bene. Ma gli ha piegato l'antenna o il tubo? No, Antonio mi ha detto che gli ha piegato l'antenna, non ha parlato di tubo, capito? E allora la c'era piegato l'antenna perché l'antenna non è grossa, capito? E quindi magari non ha resistito più di tanto. L'ha piegato la staffa. La staffa? Sì, l'ultima. E di cosa sono fatte queste staffe? E vabbè, a furia di fare forza e coso, capito? Trova la forza contro il vento e ti bigia tutto. Io l'avverto, cioè davanti, ha piegato la staffa in piedi perché c'è un solo filante che la sta tenendo. Se non c'era quel filante la tenevo giù. Aia. Buonasera anche l'amico. Vabbè. Mi senti come c'ho la gola? Io ero entrato a salutare perché da stamattina che siamo usciti, che sono sempre in movimento già, mi sono fermato solo adesso a dirla tutta, ma mi sento nemmeno tanto bene e quindi io passo in stand by e mi corico un po' là in camera e quindi buon proseguimento e ci sentiamo quando capita, ok? Vai doppio room. Va bene Marco, la buon corriccio allora, se ci ascolti. Rinascere tutto attore e poi fai girare per l'amico che è entrato, non so se è Luca, non ho capito bene. No, riprendete, l'ascolto con piacere. Non è Bruno? No, non è Bruno. Che a me sembrava Luca, non è Luca sicuramente. Vabbè, sarà così. Cosa sta facendo QRT? Oh, ci ascolto. Ciao Marco, ciao, alle prossime. Ho mangiato anche troppo a pranzo, abbiamo fatto il pesce con le patate, ma era una quantità industriale, infatti ancora non l'ho digerito, poi sai, bello carico di aglio, prezzemolo, l'aglio è che mi frega, capito? Ti sale tutta la sera. Va bene, di nuovo, buona serata a tutti e buon proseguimento. Vai Tore. Ci risentiamo, dai, se fai QRT e rimani all'ascolto. Ascoltaci bene allora. Va benissimo, ci risentiremo alle prossime. Ok Marco. Avanti signor Gianni. Marco, devi togliere il cuore all'aglio, di modo che non ti faccia che sia pesante. È quello, la parte interna che è pesante da digerire. Oh, è che mi piace un bel aglio, mi piace un bel, quindi abbondante, a capperi pure ci ho messo, insomma è uscito un bonbon, va bene, ciao, vai, vicino in casa, non mi vengono i nomi, Carlo. Va bene, sì Marco, ce la risentiamo, ciao, e anch'io rimango un altro pochettino e poi andrò a preparare il rancio per la sera. Ah, io mangio tutto un brodo. Tra selvaggia. La metto a scaldare e poi fa qua qua. E poi balli il ballo del qua qua, vero mi Gianni? Capito? Con le verdurine. Cappa cappa. Ma se proprio voglio fare il primo, c'ho anche il primo, ma non le mangio adesso perché ne ho mangiato troppo stamattina, ne ho mangiato due piatti di minestrone con le verdure. Prima mi ha chiamato un amico che è a Milano e dice devo partire stanotte col volo delle 21:35, cosa mi dici? E io ho detto cosa ti dico? Ho detto quello lo dico. decide il comandante. Allora, il volo decolla da Milano se non c'è vento forte. Poi, se quando arriva ad Alghero prova ad atterrare, non riesce, va a Olbia, e se non va, non ce la, anche a Olbia non ce la va, scende a Cagliari. E poi da Cagliari vi mettono il pullman e vi portano ad Alghero. Ho detto. E quindi il viaggio durerà un bel po'. Cosa vuoi che ti dica? Se sei fortunato a terra, se no è quello, però queste cose le sai all'ultimo momento, quelle le decide la torre di controllo insieme al comandante dell'aeromobile, capito? Io non credo, già ne prenderanno poco per immaturati, saluti, lui. E a Porto Torres una nave della Mobi, mi sa, ha rotto gli ormeggi e stava prendendo il largo. Ma no, vero, era attraccata. Esatto. Il vento era forte, già. Dice c'erano in mare aperto onde da 8 metri. Allucinante, guarda. No, il mare non si può uscire, il mare proprio scordatelo che non si può proprio uscire. Le navi non so se siano partite oggi, non penso però. Ho visto quel peschereccio, mi sono ancora dicendo, non sono uscito a cercare. Non credo che si muova nessuno, né aerei a questo punto né navi. E in due sono il capitano, il comandante e un pescatore. Un peschereccio a largo, sì. Dice che sono morti, ma non li hanno trovati ancora. Non solo se ne sei vado. Ah, salvateci lui. E il comandante si è salvato, no, ci compreso i documenti, si è salvato Edo, anche lui sono dispersi. Ma se non mi sumare i documenti che ha fatto, non avrà preso qualche pilottina, qualche imbarcazione di quelle forti che tirano la nave. Una nave di passaggio, non so se era un altro peschereccio che c'era nelle vicinanze e l'ha salvato lui, loro. Cazzo, ora. Questa gente, poverina, escono, fanno sacrifici, poi, è una lotta, col tempo è una lotta. A 200 metri, a 200 metri di profondità è la barca. Figurati, i ragazzi così sì, e saranno dentro. No, sicuramente sono rimasti a galla, la corrente ce li ha portati via. Adesso stanno guardando con gli elicotteri a vedere dove ce li ha portati. Speriamo che li abbia portati verso costa o in spiaggia. Speriamo, ma è difficile. Poverini, speriamo che li trovino almeno a fargli i funerali, dai. Perché il mare era proprio agitatissimo, onde alte, quindi se questi sono anche sbalzati fuori dalla nave, dalla barca, da pesca, e magari sono stati travolti poi dalle onde, capito? Lì entra il freddo, eccetera, e non duri molto. E quello che si è salvato si può ritenere molto molto fortunato, perché se gli altri non ce l'hanno fatta, lui davvero è miracolato. E l'ha messo un'imbarcazione, poveracci, vabbè, si è salvato lui, se non altro. Ma l'imbarcazione che usava per pescare l'ha persa. Ma non gliela paga l'assicurazione, ma che io ci sono assicurati, devi pagarti l'assicurazione anche per quello. Ma non lo sono, comunque poveretti, vanno a lavorare e non tornano più a casa, tanto è brutto quando è così. Io lo so perché, guarda, a Porto Torres ci ho visto scene allucinanti, un ragazzo che è andato a pescare, che è morto in mare. C'era tutta la gente fuori di casa sua, tutti i bignendi, cioè, una cosa straziata. Oh, poveracci, già ho visto i servizi a Rai 3. Praticamente era di quelle imbarcazioni che pescano a strascico e pare che la rete si sia impigliata, capito? E quindi col mare mare mosso, capito? L'imbarcazione si è puntata, è imbarcato acqua ed è affondata per quel motivo lì, così dicevano al telegiornale. È come se si fosse ancorata, la tirava, come andava a tirare la rete, tirava l'imbarcazione. Esatto. Mi sa che ti stanno chiamando, Gianni, sull'altro canale. L'ho sentito, adesso vado. Ma è presto ancora, è strano. Vuoi uscire prima questo qui, non capisco perché. Io ho notato che le giornate si stanno allungando. Prima alle 6, anche prima era buio, adesso dopo le 6 sta facendo buio, se è un 4, 6 e 20. A fine mese fa buio alle 7, capito? E poi il prossimo mese cambia l'orario, meno male. Speriamo dai, che vada tutto bene, perché io già mi accontento di tutto. Sì, i cani vanno a orario biologico, capito, no? Non sono come noi, capito, che guardiamo l'ora e passano quelle ore, no? I cani e tutti gli animali si regolano in base al giorno, capito, il giorno, la notte, per loro l'ora non esiste come quella nostra. Io ci si può proprio mangiare l'altra. E allora fate fetta in due, meglio così. Allora, non penso che lo mangiate, io sono sicuro che, siccome la roba selvatica l'ho già mangiata, sono sicuro che la carne sarà dura, se è dura lui la dovuta, perché il profumo c'è, però queste cose selvatiche hanno sempre la carne stopposa, dura, ci ho messo anche il vino, non è che, ci ho messo vino, arancia, rosmarino, insomma il condimento c'è, però la carne rimane sempre dura. Ciao Claudio, buonasera. Ciao Claudio. Adesso mi è arrivata la corrente, cazzo, per carità, mi è sceso un palo, c'è la vena, sono andati via poco fa, che rottura di balle. Aspettate un attimo, sto accendendo la stufa, riprendi Carlo. Sì, bene, se no rimanevi con una fase sola e funziona tutto male, capito, le luci accendono appena e così il resto. No, non accendevano proprio la radio, non accendeva niente, la luce era debole, capito? Sì. Comunque avevi ragione Claudio, quel miscelatore d'antenna già funziona, era un PL che era sballato, capito? Controllato col tester e adesso ho collegato tutte e due le radio, prima ero con l'altra, poi ho cambiato, adesso sono con Kenwood, capito? Col 140 e già sta andando bene, sta funzionando anche il miscelatore d'antenna. Io qui funziona, ma te l'ho detto, io ce l'ho uguale, ho due H1000 attaccati, uno per la 27 per 10 metri, compresi gli 11, l'altro per gli HF, non mi ha mai creato problemi, bisogna stare attenti all'ispezione. E dirà Gianni, diventato Marco una lì, oggi mai conduto a terra, ed era uno spezzone che gli andava male. Dai, ci sentiamo tra un attimo ragazzi, no, non preoccupato, questa sera ho senza radio, cazzo la bagaccia, che l'ha fatti questi pali di merda che mettono, meno male hanno ripristinato subito, ho chiamato il centro assistenza di Enel, mi ha detto no, stiamo già intervenendo perché tutta la zona e manca una fase, io però muovitevi, sono venuti poveracci, cazzo, l'hanno messo tutto a posto. Dai, ci sentiamo tra un po', ok? Siamo credo che hanno pigliato. Ah, puttana c'hai a me, asco, io abbago la corrente e devo ripristinare, qua siamo quattro tutti vicini, più 50 metri più avanti ci sono altre quattro case, mi ha chiamato anche Stefano, quello che lavorava da Desole, ma ha detto ma luce c'hai tu? Sì che ce l'ho, però è bassa anche io, quindi ho già chiamato, adesso intervengo, infatti dopo un'oretta l'hanno messo tutto a posto. L'ho detto anche a Carlo. Va bene ragazzi, dai, datemi il tempo di accendere il riscaldamento e tu arriva. Io tranquillo, siamo qua. Anzi io forse se mi richiama devo andare giù. È tranquillo adesso. Forse ne ho arrivato. È un bel problema oggi i danni che ha fatto, un bel problema il vento, ma non lo so, le previsioni dicevano che era, che avrebbe migliorato il tempo, però bisogna vedere se il vento continua o meno, perché il maestrale solitamente fa o un giorno secco oppure 3 giorni o 5 giorni, capito? Sempre dispari. Sì, so anche io così. Va bene, io vi saluto, dai, devo andare, mi ha richiamato il peso se vuole scendere. Dai, ci sentiamo, grazie per il consiglio, una buona serata e una buona continuazione, dai. Purtroppo devo andare. Ciao! Pesce, già, portare peso. E allora, se vuole scendere, non lo so, forse si rende conto del tempo, non lo so come in questo periodo vuole scendere, sempre così, allora sì. Portalo, poverino, vai, molla tutto e portalo. Ciao, ciao. Ora ci sei ancora tu? Sì, ci sono ancora, sono qua. Ciao zio Toro, scusami che non ti avevo sentito. Buonasera. Sì. Anche se sono comodo, in ascolto. Ciao. Ogni tanto mi allontano. Ciao, che mi ha salutato. Ciao Toro, scusa che non ti avevo sentito, mi sono andato a regolare la caldaia, che già partita, parte a 1000 e la devo regolare, se no stata la via all'impicco. Chi è che mi ha salutato? C'è qualcuno che mi ha salutato? Comunque ciao, buonasera, mi hai ascoltato. Sì, sta andando alla grande, Carlo, e se no va pieno, sì, come si è messo lì a portate muta? Schiaccia, vedi quanto stai pompando. Allora, portante muta è 10, un pochettino di più di 10, ma è accesa da un bel po', Sono pieno, sì, l'antenna me la compro anch'io, guarda, è una favola, guarda che arrivare 9 qua con quell'antenna, tu immaginate che Gianni con 5 watt mi arriva 9,5, appena più alto di te, con l'antenna sul tetto, poi quando chiaramente usa le radio che hanno più potenza mi arriva anche 9,20, però caspita, stai andando alla grande, stai andando alla grande. Quanto ti è arrivato, Carlo? No, mi arriva 9, la radio a volte si abbassa e a volte ce lo devo abbassare io, perché c'è Gianni, era più forte. E vabbè, io non faccio nulla. E vabbè, tieni conto che sto usando un microfono normale, quindi è una cannonata, lasciate perdere a me che io sono maniaco, uso sempre l'MG60, però lui con quella radio sta andando col microfono normale e cazzo c'ha un segnalone, Carlo, un segnalone c'hai. Ascolta, ma non l'hai spostata, no? Sempre lì, sempre lì, l'altra l'ho messa dall'altra parte e ne ho una a destra e una a sinistra. Cazzo, cos'hai comprato? Un gioiello c'hai, un gioiellino c'hai, una radio bellissima, chiara, forte, oramai ti sei già abituato alla distanza microfonica, ma il segnale è una cannonata. Cazzo di aro, una boomera S9 qua, io non vedo Sassari, a me i segnali che mi arrivano sono dal 9 al 9,10, quindi sia a livello di un segnale antenna proprio sul tetto, favolosa. È meglio così, dai. Ieri stavo per buttare quel miscelatore, invece poi ho controllato gli spezzoni e ce n'era uno maledetto, che c'era un PL che evidentemente o è rimasto schiacciato o si è tirato, capito, che stava facendo, era in corto, capito, quindi l'ho buttato via, ho recuperato però i 2 PL, l'ho rifatto nuovo con un pezzo di cavo nuovo e adesso alla grande, ho controllato col tessere ed è tutto a posto e funziona il miscelatore, una bomba. Ce l'ho io, Carlo, quel CN201 mi sembra che si chiami, quello celeste, ce l'ho io e sono degli ultimi commutatori d'antenna, capito, no? Non so come quello del ZG, vanno benissimo, tengono potenza e poi sono buoni, sono fatti bene, mi sembrava strano, infatti quando metto quello celeste, no, controlla che c'è spezzone che è fatto male, sicuramente, no, va bene, dai. E metto l'antenna ancora attaccata, Tutte e due, non ne so far preparata ancora, sono abbastanza messo bene. Quale registro a 150? Una che quella multibanda mi si è curvata un po', però è sempre attaccata. No, io ce li ho a base di giardino. Il monitor recinzione del giardino, infatti, mettile sopra, no, giù di 2000 notti, già non ne vengo qui, tanto la zona è alta, mi sentono tutti, Sassari e Porto Torres, Alghero, tanto siamo quattro iatti, ma fa due giacciari, no, non la metto assolutamente, non c'ho direttive, non ho piazzato niente, c'ho tutto a carbonato in mansarda, ho messo solo di poli, andavo così, cosa aveva, mi ero in bocca poco fa con un paio di colleghi radioamatori da una rete, l'ha fatto lo vecchio. Un po' di danno questi che hanno gli impianti con le direttive e con le cose, perché ti sgrana il motore, ti sfascia il rotore, ti fascia l'antenne, no, basta. Ci mancano 8 anni a carbonato, ragazzi, con le direttive, in alto al tetto, a 30 metri di altezza, quando c'era il maestrale non dormivo, ero sempre in alto, sempre in mansarda controllando le antenne, infatti mia moglie mi ha detto, ascolta, fatti la camera da letto, mansarda, e così ti controllo le antenne, ma vaffanculo, ho fatto ben nuda. Hai fatto bene, le direttive sono un problema che non è dorme. No, io già dormo, da me già sono fissati bene. Già va bene. No, io sono Renato, va bene così, ho le antenne per i 10 metri, per qua per la 27, tutte e due.